Este es desde Apaidende. Antenne, antenne di quelle che scioppano grande. Andate, Anto. Andando a Trapacco, adesso sono qua esattamente all'altezza delle cavalca, del cavalca Fiorentina. Cappa Antonio, oggi Giuseppe qui in zona, domani siamo nel Nuorese, mannaggia. Come Anto? Ma la veloce, sì. No, sto entrando adesso in viale Porto Torres, ero in viale Sicilia, poi ho preso il cavalcavia e adesso sto entrando in viale Porto Torres. Ah, cazzo, ma ancora mezz'ora di quella che c'è in campo. Questo qui è il 100, quello piccolino che avevo, e me l'hanno restituito oggi, Anto. Me l'ho messo qui nella carretta piccolina perché è piccolino e ci sta bene nel portaoggetti. Ma un BM? Come Anto? BM, è vero. In BM. Se avessi messo l'apparecchio che c'è una persona, aiuto un bel porto. Adesso vedo un po' mio, Anto, perché per qua, guarda, è un amore questo paratino. È piccolo e ci sta anche dentro il cassettino, adesso lo devo sistemare un pochino. Per il momento va bene, poi dopo ci vedrà, dai, non si può pretendere molto. Ma là, prendere uno per la macchina, piccolo. E adesso vedo un pochino, Anto, perché sicuramente riesco a procurare anche qualche vitamina per questo, vedo un pochino, tanto la macchina è a 12 volt e va bene. Che voglia! Come detto, Anto, non ti ho copiato bene, aspetta un secondo solo. Che è una cazzata di andare in macchina la vitamina. La vitamina sarebbe voluta nella parretta. Bellissima. La macchina è facile, è solo un filo fatta. Ma adesso vediamo un pochino Anto che cosa ne viene fuori, dai, tanto devo fare un passo alla volta perché sembra così, ma dove ti giri stai spendendo soldi. Però no, per il momento fermo così. Poi pian pianino se deciderai per la macchina te lo faccio prendere io un apparecchio che fa ed è forte.